donna crudele. Oh, l'incostante, mia preferita amante, che di stirpe si vanta d'un fiore, canta per suo diporto una canzone. Canta tu pur, che te ne prego, e folle, rendi contento o bella il suo desire. Si appaghi la sua brava, canterai, canterò, lode a tuo il cielo.